a Roma sotto la luna non canti più. Gli stornelli, le serenate di gioventù. Il progresso t'ha fatto grande, ma sta città non è quella tu se viveva tant'anni fa. Novecentismo rinnovando tutto va, e le usanze antiche e semplici son ricordi che svaniscono. Ma tu, Roma mia, senza nostalgia segui la modernità, fai la progressista, l'universalista, dici ok, thank you, love you. Del tempo bello che non c'è più.